Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di un argomento molto delicato, ma molto delicato per, diciamo, i fatti di cronaca. Ma noi vogliamo andare oltre questi fatti di cronaca dopo averli così isolati, e ne parleremo e come, ma vogliamo un po' approfondire questo argomento. L'argomento è la carne di cavallo, bene balzata alla ribalta per uno scandalo che si è così allargato, diffuso in vari paesi. Ma noi vogliamo andare un po' a scoprire la carne di cavallo, ancora quanto viene consumata, quali sono appunto le macellerie qui in giro per l'Italia, e sarà una grande scoperta perché sono veramente tante le macellerie di carne equina e sono tanti anche coloro che lavorano, ad esempio salumifici che lavorano carne di cavallo o macelli che lavorano la carne di cavallo. Bene, diciamo che è un argomento che può anche suscitare, diciamo così, come posso dire, l'irrigidimento di molte persone che vedono appunto negli animali un qualcosa di molto particolare da non toccare. Però ho ritenuto giusto andare, diciamo, a scoprire questo fenomeno, perché è un fenomeno molto importante, come vedrete quando ne parleremo. Appunto, ci sono città che hanno un numero di macellerie equine quasi quanto le macellerie bovine, ad esempio anche al nord, non solo al sud, Verona, Parma, per non parlare poi della Puglia, per non parlare della Sicilia. Insomma, diciamo che è un fenomeno molto ma molto rilevante. Ebbene, io direi, per cominciare, proprio cominciamo dal fatto di cronaca che poi non c'entra assolutamente con il resto dell'argomento che tratteremo. Questo lo voglio ribadire. Bene, cominciamo avendo con noi il capitano Dario Praturlon del Comando Centrale dei NAS. Buongiorno capitano. Buongiorno a lei. Volevo da lei un breve quadro sintetico, diciamo, di questo scandalo che è successo sulla carne equina, ma non tanto sulla carne equina, su quello che è stato trovato, diciamo, in confezioni che non dovevano contenere la carne equina. Ecco, il fenomeno è di grande rilevanza, di piccola rilevanza, cioè qual è l'infrazione, diciamo, fatta da questi produttori? Il fenomeno riguarda essenzialmente una frode commerciale, ovvero inserire all'interno di un prodotto che contiene una tipologia di sostanza alimentare dichiarata, una sostanza che invece non è dichiarata, che non è detto che sia pericolosa, come in questo caso. Sembra dagli elementi che stanno emergendo che la quantità di carne di cavallo inserita all'interno dei prodotti a base di carne bovina non sia così consistente, è però comunque una frode commerciale. Ecco, sì, si è parlato di carne proveniente da allevamenti di cavalli da corsa ed altro, quindi ancora tutto questo, diciamo, rimane ancora molto sul dubbio, se non erro. Le analisi dimostrano, soprattutto a livello europeo e in due casi a livello di prodotto commercializzato in Italia, che del DNA proveniente da carne, quindi assimilabile alla carne di equino, era presente in prodotti a base di carne bovina. Quindi sicuramente poi riuscire a ricondurre l'origine della carne equina a cavalli che potevano essere da reddito, quindi allevati allo scopo di poi diventare alimento, oppure carne di cavalli che invece sono stati illegalmente macellati e messi nella catena alimentare, ma che erano utilizzati per manifestazioni ippiche, è ancora da vedersi. Ecco, quindi il motivo per cui è stata utilizzata questa carne forse è un motivo di costo, semplicemente di costo, probabilmente costa meno, oppure... Ci sono due filosofie di ipotesi, ci sono due ipotesi di lavoro. Una è sicuramente quella del costo, un costo che della carne di cavallo che era similare o inferiore a quella del bovino, altrimenti non sarebbe remunerativo inserirla nella catena commerciale della carne bovina. L'altra è quella di riuscire a recuperare e immettere nella catena alimentare un prodotto che altrimenti non era destinato a questo. Al consumo. E questo potrebbe essere il caso di prodotti che a base di carne di cavallo derivanti da cavalli che erano utilizzati nelle manifestazioni ippiche e quindi più soggetti a trattamenti farmacologici. Bene, io capitano la ringrazio, grazie per la vostra disponibilità e complimenti anche per il vostro lavoro, e a presto. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Beh, Bene, ora cominciamo, diciamo, andiamo nel vivo, abbiamo così, come posso dire, localizzato quello che è successo, ma ora parleremo di tutt'altra cosa. Parleremo appunto della carne equina che ogni giorno viene messa sul mercato, dove dicevo ci sono migliaia di macellerie in giro per l'Italia, e noi, diciamo, andremo durante questa trasmissione a scoprirne qua e là. Ora andiamo in Puglia. Puglia è una regione dove si consuma molta carne di cavallo, e abbiamo con noi Vincenzo Soldano, che è un macellaio di Trinitapoli, in provincia di Foggia. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno signor Pellegrini. No, non sono Pellegrini, sono Paolini, ma fa lo stesso. Senta, buongiorno. Senta Soldano, volevo chiederle, voi, visto questo, diciamo, quello che è successo, ne avete risentito nell'attività di tutti i giorni? Diciamo che il polverone alzato in questa maniera, diciamo che ne abbiamo abbastanza risentito. Diciamo che, perché nominando carne di cavallo non si dà la giusta notizia al contribuente di quello che vanno incontro. Quindi, nominando soltanto la carne equina, carne di cavallo, la gente non arriva alla sostanza della situazione, e può capire una parola per un'altra, può capire che la carne di cavallo non sia idonea per l'alimentazione, bensì il contrario. Ecco, diciamo che la carne che arriva sui vostri banchi viene sottoposta a grandi controlli? La carne che arriva sui nostri banchi, pur non avendo, diciamo, la rilevanza che non doveva essere tracciabile, bensì dal 2002 la carne equina arriva nelle nostre macellerie con la tracciabilità. Ah, quindi siete all'avanguardia sulle carni? Al massimo al 100% dell'avanguardia, anche perché poi i cavalli, tengo a precisare che i cavalli, bensì a differenza degli altri animali, hanno un microchip per la macellazione, quindi sono altamente controllati. Questi microchip non si possono minimamente manomettere, quindi è al 100% della sicurezza della carne. Ah, quindi noi mettiamo sui banchi. Quindi la filiera è tutta tranquilla. Tengo a precisare che i controlli sono altamente, diciamo, all'avanguardia, i controlli in Puglia e altrove. Ecco, volevo chiedere, di conseguenza c'è tutta la filiera tracciata, ma da dove arrivano generalmente, diciamo, la carne equina che lei, diciamo, vende sul suo banco? Sì, naturalmente la carne equina arriva, noi riteniamo, dai nostri fornitori che ritirano dalla Polonia. Ho capito. Le mezzine si macellano in Polonia il venerdì, diciamo una data, a distanza di 24 ore arriva a destinazione, con la tracciabilità e tutto il resto. Bene, c'è ancora molto consumo rispetto agli anni passati della carne, o c'è stato un calo? Vabbè, lasciamo perdere questo periodo, che sicuramente è un periodo economico particolare, però diciamo che si è mantenuta alta, diciamo, su questi ultimi 5-6 anni la carne. Sì, la vendita della carne equina è rimasta invariata, anche perché forse il contribuente, il consumo della carne di cavallo, sanno che è una carne genuina, freschissima, è magra di grassi, è molto magra di grassi, anzi, a prescindere dalla carne di manzo, il grasso della carne equina è un grasso insaturo che combatte il colesterolo, e quindi la gente è a conoscenza di questa situazione e ne consuma tantissima. Bene, Soldano, io la ringrazio, perché poi appunto dei contenuti della carne di cavallo ne parleremo appunto con un nostro nuovo ospite, che appunto è un docente di alimentazione e nutrizione umana. Grazie e buon lavoro. Prego, Soldano. Grazie a lei, buongiorno. Prima di passare la linea alla regia volevo dare un dato, abbiamo parlato di consumo. La spesa media effettiva per l'acquisto di carne di cavallo, dato Istat, è 35,69 euro. Cos'è la spesa media effettiva? È calcolata dividendo la spesa totale delle famiglie per l'acquisto di carne di cavallo per il numero di famiglie che l'hanno acquistata. Il gastronauta. Ecco, continuiamo questo nostro viaggio sul discorso che riguarda appunto su questo viaggio nella carne di cavallo. Ho precisato all'inizio, ma lo voglio precisare sempre, che abbiamo così, diciamo, parlato dello scandalo con il capitano Praturlon del comando centrale dei NAS e abbiamo per così dire isolato questo fenomeno. Abbiamo capito che si tratta di una frode commerciale. Quello che continueremo a fare d'ora in poi è veramente un itinerario per andare a scoprire la carne di cavallo. Perché? Perché in Italia, lo ripeto, ci sono tantissime macellerie di carne equina e ci sono anche, abbiamo dato prima un dato ISTAT, degli ottimi consumi di carne di cavallo. E lo ripeto ancora, mi rendo conto che ci sono moltissimi radioascoltatori che, come posso dire, reagiranno in maniera molto negativa a sentire parlare di carne di cavallo, ma io credo che sia un dovere dell'informazione, visto che questo fenomeno è diciamo tornato fuori da uno scandalo, andare a approfondire, perché questo è una realtà e di fronte alla realtà appunto non si può sfuggire. Ebbene, ora abbiamo così parlato all'inizio appunto anche con un macellaio, ci ha spiegato la filiera, ci ha spiegato i controlli, ma io voglio entrare proprio nel discorso della carne, cioè la carne di cavallo, cos'ha di particolare? E questo lo chiedo al professor Salvatore Ciappellano, docente di alimentazione e nutrizione umana all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ci può fare un quadro anche veloce, così diciamo, dei contenuti, diciamo dei pregi della carne di cavallo? Ma la carne di cavallo è da sempre è stata, diciamo, nella conoscenza della popolazione che è famosa perché può essere molto interessante per il suo contenuto di ferro. Difatti già negli anni, nei secoli passati, veniva detto: mangia carne di cavallo se hai problemi di anemia. Però questo non è solamente l'unico aspetto positivo, per cui il fatto che sia ricca rispetto alle altre carni di ferro, ma anche è ricca di alcune componenti dei grassi che sono molto particolari, perché la carne di cavallo, a differenza dell'altra carne, è più ricca di alcuni acidi grassi che sono quelli famosi che sono presenti nel pesce, per cui gli omega 3 e gli omega 6, per cui da questo punto di vista può svolgere anche lei un ruolo molto importante per chi ad esempio non mangia pesce. Non può sostituire assolutamente il pesce, ma comunque può contribuire a migliorare lo stato nutrizionale anche di un individuo che non mangia pesce. E difatti da questo punto di vista noi siamo stati già in periodi non sospetti, perché è stato un lavoro che abbiamo condotto circa 3 anni fa sulla qualità della carne di cavallo rispetto alla carne di mancia, alla carne di maiale, per quanto riguarda alcuni benefici che poteva portare, in particolare la ricaduta del contenuto di ferro su uomini che diciamo erano disposti a mangiare carne di cavallo, piuttosto che per quanto riguarda il contenuto di alcuni grassi che andavano a depositarsi nell'organismo. E abbiamo visto delle cose che sono abbastanza interessanti, per cui la carne di cavallo ha tutta la ragione di poter essere consumata quanto le altre carni. Ecco, professore, rimanga con noi, perché ora abbiamo anche un macellaio di Milano, una macelleria molto, molto nota di Milano. Buongiorno a Giorgio Pellegrini. Buongiorno a tutti, buongiorno a Davide Paolini. E Pellegrini, io volevo chiederle questo: chi è il suo consumatore? Lei è una, diciamo, la macelleria forse la più nota di Milano per la carne equina. Tra l'altro, se ben ricordo, lei fa anche un pranzo a mezzogiorno del giovedì, quindi sicuramente è sempre abbastanza affollata. Le volevo chiedere, ecco, chi è l'acquirente tipo, chiamiamolo così, della sua carne di cavallo? Vede, l'acquirente tipo, diciamo che sì, è la famiglia, quindi la massaia, ma abbiamo avuto negli ultimi anni anche un recupero da parte dei giovani. Questo recupero perché comunque, come diceva appunto il professor Ciappellaro prima, è una carne molto magra, quindi il trentenne, diciamo, segue molto la dieta, e devo dire che anche noi macellai ci siamo, diciamo, un attimino evoluti per quanto riguarda la possibilità di somministrare questa carne a certe persone, ma perché no, come diceva prima, anche nel pranzo. Quindi devo dire che abbiamo una fascia che va dal neonato, perché noi usiamo, cioè consigliamo la nostra carne, soprattutto quella di puledro, per lo svezzamento, quindi dai 9 mesi, fino alla persona anziana, dove appunto troviamo che è una carne molto digeribile, molto facile appunto da cucinare, perché ha una cottura veloce per quanto riguarda le bistecche, e quindi devo dire che comunque copriamo tutte le fasce d'età. Ecco. Rimane con noi Pellegrini, professor Ciappellano, abbiamo parlato di tutti gli aspetti positivi, c'è anche qualche aspetto negativo in questa carne? Ma gli aspetti negativi, a parte ora qualcuno che può dar fastidio, diciamo quella percezione e quell'odore che alcuni sentono, perché la nostra sperimentazione qualcuno dei volontari che aveva partecipato a questo studio riferiva di un odore particolare che aveva il cavallo, che a tanti può dare anche fastidio, però gli aspetti negativi veri e propri ne vedo molto pochi, perché è una carne che può essere scelta in alternativa ad altre, per cui ha delle differenze, come la carne di pollo si differenzia da quella di manzo, da quella di maiale, quella di cavallo si differenzia dalle altre. Ha una cosa positiva che è quella di avere anche un contenuto di colesterolo basso, per cui rispetto alla carne di maiale piuttosto che alla carne di manzo, che per certi versi può essere un vantaggio anche, diciamo, entro certi limiti positivo da tener conto. Di negativo potrebbe esserci la non conoscenza della provenienza, per cui però io questo lo metto come prerequisito, la carne di cavallo che arriva alle macellerie, per cui quando è il momento della vendita deve essere assolutamente super controllata, per cui tutti i problemi di trichina paventati piuttosto che di altre contaminazioni o di stress dell'animale, quello in teoria non dovrebbe esserci, quella è una frode e un diciamo qualcosa di fraudolento che non dovrebbe essere fatto, per cui di aspetti negativi io ne vedo relativamente poche, a parte quelle del gusto che a qualcuno può anche non andare. Bene, la ringrazio professore del suo intervento, a presto. Bene, continuiamo, Pellegrini rimanga con noi, ma ora andiamo, c'è anche un altro aspetto della carne, non solo macellerie, ma ci sono anche, diciamo, produzione di salumi e gli sfilacci sono notissimi, specialmente in quel di Verona, diciamo gli sfilacci corrono a gogo, ma anche in altre parti. E allora abbiamo con noi Ivonne Tentori, che è del centro carni di cavallo, che appunto in provincia di Lecco, a Caloisa Zacorte, produce appunto salumi. Buongiorno Ivonne. Buongiorno. Ecco, mi può dire quali sono i salumi, diciamo, più noti, oltre gli sfalacci che sono, diciamo, conosciutissimi, quali sono più diffusi tra gli altri salame, piuttosto che la diciamo, ce ne sono tanti di salumi, quindi come per la carne di maiale normale, penso. Sì, ce ne sono tantissimi, c'è la bresaola equina, che è buonissima, è bella magra, ci sono i vari salami, piccante, quelli tutti magri, senza maiale, i würstel, c'è Bologna, c'è un prosciutto cotto, ce n'è una quantità. Quindi tutto come per il maiale, mi sembra di capire. Sì, tranne le cose grasse, ecco, le cose pancetta, robe così, no, perché il cavallo è prettamente magro. Ho capito. Quindi diciamo che il contrario dei salumi di maiale, che il grasso è quello che fa così la qualità del prodotto, mentre mi sembra di capire che sui salumi di cavallo è diverso. Ecco, volevo chiederle, negli ultimi anni il consumo di salumi di cavallo è aumentato, è diminuito? È aumentato tanto, proprio per il problema del colesterolo, o comunque chi va alla ricerca dei prodotti magri e quindi viene a prendere i nostri prodotti proprio per questa cosa, proprio perché sono magri. Ecco, la provenienza della carne che voi lavorate è estera oppure è made in Italy? No, la carne di cavallo è esclusivamente estera, cioè viene dal Canada, viene dall'Argentina, viene dalla Polonia, viene da tantissimi posti, ma in Italia non ce n'è, non c'è proprio... non c'è, a parte allevamenti, che non viene da allevamenti, la carne di cavallo di solito viene da posti dove corrono, dove sono comunque liberi. Ho capito, quindi allo stato brado, insomma, per intenderci. Sì. Bene, io la ringrazio, Ivonne Tentori, centro carni cavallo. Sentiamo, torniamo a Pellegrini. Pellegrini, ma diciamo i controlli sono veramente ferrei, quindi siete sicuri di quello che vendete? Beh, certamente, questo è una cosa normalissima, perché alla fine noi siamo macellai, siamo gli ultimi, le ultime persone che si confrontano con il cliente, con l'acquirente. Quindi è logico che dietro ci deve essere un sistema, e noi siamo certi di tutta questa filiera corta, perché macello, macellaio, cliente. Io non riesco a capire, in questi giorni se ne è parlato tantissimo di questi passaggi, 7-8 passaggi di carne che dopo vanno venduti nei discount come hamburger a basso costo. Quindi qualcuno ci ha guadagnato in questo sistema e questo è il problema. Quindi la filiera deve essere cortissima, fidarsi sempre, mai del prezzo, ma delle persone che comunque ci sono dietro e dei macellai. Naturalmente è logico che c'è sempre nel mondo chi lavora in un modo non appropriato e lo fa solo per i soldi. Guardi che il macellaio non è la carne che è in via di estinzione, ma il macellaio che è una razza in via di estinzione. Quindi... questa è una bella battuta, Pellegrini. Perché... È vero, sì, perché ci mettiamo, io sono figlio d'arte, quindi come tanti altri miei colleghi, ma tutta la carne buona nel mondo, importante che comunque venga acquistata nei posti giusti e comunque ci deve essere sicuramente un controllo sia da parte dell'autorità dell'ASL italiane ed estere, comunque un prodotto quando entra in Europa deve essere, è testato. Un'ultima battutina, Pellegrini, qual è la, diciamo, il paese da dove arriva il meglio della carne di cavallo? Il meglio della carne di cavallo a livello secondo me mondiale è la Polonia. Perché? Perché ha cavalli che sono grassi, pesanti e la carne è molto tenera e dolce. Bene, grazie a Giorgio Pellegrini, macellaio, macellaio in Milano. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di carni di cavallo. Non sto più a ripetere quello che ho fatto all'inizio e quindi volevo dire che appunto stiamo parlando di un qualcosa di diverso dello scandalo che è successo. Bene, abbiamo con noi Marco Morsiani, che è consigliere delegato di Naba Carni di Rezzato, in provincia di Brescia. Credo che sia una delle aziende, forse l'azienda più importante, diciamo il macello più importante in Italia. Tra l'altro il fondatore ha scritto anche un libro, credo uno dei pochi libri che esistono sull'argomento, che è La carne qui, una storia caratteristica e griglia di classificazione, di Virginio Masina. Bene, Morsiani, volevo chiedere a lei, voi macellate, quindi non vendete direttamente, quindi siete il passaggio, diciamo, la macellazione è uno dei passaggi più importanti. Le volevo chiedere anche lei, voglio tornare sui controlli, perché credo che sia un fatto molto importante questo, così da comunicare. Volevo chiederle innanzitutto da dove arrivano, diciamo, i cavalli che voi macellate, poi quali controlli avete. Ho sentito che il discorso appunto del controllo di filiera forse è superiore a quello della carne di manzo normale, così? Intanto buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Dunque mi presento, Naba Carni è sicuramente, come ha detto lei, l'azienda più importante in Italia, leader di mercato nel nostro settore della carne equina e tra le più importanti in Europa. Noi siamo focalizzati sulla carne di cavallo e ormai da diversi anni abbiamo un controllo della filiera completo, nel senso che abbiamo ancora una decina di anni or sono costituito un macello in Polonia e quindi tutta la carne che ci proviene dalla Polonia proviene da un macello che è di proprietà della nostra azienda e 4 anni or sono abbiamo fatto un macello anche in Argentina. Quindi oggi tutta mi la scusi carne se le faccio una domanda, Polonia e Argentina perché là ci sono cavalli importanti, quindi c'è diciamo la materia prima da macellare? I cavalli della Polonia mi ha preceduto sì, Giorgio Pellegrini sì. Che saluto per la qualità, perché c'è un patrimonio di equini molto importante e questo storicamente da sempre. L'Argentina perché l'Argentina il nostro macello in Argentina è nella regione della Patagonia, quindi nel sud dell'Argentina, pampe enormi, distese enormi, quindi cavalli al pascolo, carne assolutamente naturale e tutta la carne che noi oggi commercializziamo proviene da questi nostri due macelli che abbiamo in Polonia e in Argentina, come ho detto. E questo ci consente di controllare la filiera, ci consente di seguire attentamente i controlli sui cavalli e sulla carne, quindi noi abbiamo dei controlli che eseguiamo noi con delle procedure di autocontrollo come tutte le aziende hanno, quindi con tutti i nostri sistemi di HACCP sottostiamo anche a tutti i controlli dell'autorità veterinaria perché per poter macellare, quindi per poter poi importare dall'Argentina in Europa la carne di cavallo e per poter portare dalla Polonia all'Italia i cavalli macellati. Ecco, abbiamo ogni tipo di controllo, certo, microbiologico sui prodotti, sugli ambienti, sui macelli, sull'acqua, su tutto. Rimanga con noi perché ora andiamo in una macelleria di Melzo dove troviamo un macellaio molto particolare. Io credo che sarà uno dei pochi macellai in Italia laureato. È laureato in scienze alimentari. Buongiorno Donato Turba. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Turba, volevo a lei faccio, visto che anche, diciamo, lei si occupa anche di scienze alimentari, quindi volevo chiederle questo, ma lei ogni volta spiega ai suoi clienti, ai suoi consumatori cosa mangiano? Ma io dico proprio di sì, perché è un po' questo, perché è il nostro compito, è il compito che in fondo poi non occorre essere dei laureati per fare, ma però è il compito che ha il negozio tradizionale, che ha la bottega, che è il macellaio. Quello che ci mette la faccia, e quando noi diciamo noi la carne cavallo, certo, tutti i giorni la mettiamo in qualsiasi nostro prodotto, quindi noi vendiamo questo, e si figuri se io non avessi l'interesse personale di sapere la tracciabilità di quello che io sto vendendo. Io per esempio arrivo da una famiglia di 5 generazioni di macellai e da quasi 100 anni facciamo questo mestiere. Vuol dire che insomma qualcosa abbiamo lasciato, perché se no, se dassimo qualcosa che al consumatore che non va bene o che non funziona o che dà dei problemi, sicuramente non saremmo rimasti così tanto nel tempo. E questo vale anche per i miei colleghi, cioè io credo che oggi avere un negozio tradizionale vuol dire essere dei professionisti, vuol dire metterci la faccia ogni mattina, vuol dire mettersi in gioco ogni giorno e vuol dire ogni giorno essere scrupolosi, attenti sulla scelta dei fornitori, sulla scelta della carne, sulla tracciabilità che questa carne ha, e quindi noi lo possiamo sapere perché comunque la carne di cavallo ha una sua tracciabilità, ha un lotto di provenienza, abbiamo, certo, tutto. Senta, Turba, io ora la fermo perché abbiamo capito, cioè questo, diciamo, il discorso della filiera lo abbiamo anche sentito da altri macellai, però prima a Morsiani, poi anche lei faccio una domanda un po' cattiva perché devo farla, perché questi sono molti dubbi che sono molte volte quando si parla di cavallo, si parla di carne di cavallo. Morsiani, io molte volte ho sentito così adombrato dietro, quando si parla di cavallo, di carni, un qualcosa, dei commerci strani sui cavalli da corsa che poi muoiono perché sono pieni di anabolizzanti. Ecco, mi vuole un po', così, come posso dire, chiarire su questo punto? Come le ho detto da in precedenza, noi abbiamo due macelli nel mondo, e quindi i cavalli che noi acquistiamo nei mercati in Polonia, acquistiamo in Argentina, sono tutti cavalli assolutamente destinati alla produzione alimentare, quindi con tutti i documenti che sono idonei per entrare nella catena alimentare e quindi per diventare dell'alimentazione. E ecco, quello che lei mi chiede, io non le so dare risposte, è un mondo che non... Però esiste questo mondo, tutti dicono che esiste, insomma, diciamo che quando è successo questo scandalo immediatamente la gente ha pensato subito, diciamo, la gente no. che non sa di questi controlli di filiera, perché diciamo che è un mondo, quello della carne equina, che è poco conosciuto, e allora diciamo che molte illazioni sono sorte dicendo chissà cos'è questa carne di cavallo che clandestinamente dentro queste confezioni probabilmente chissà da dove arriva. Questa è una domanda che d'obbligo che io volevo fare. E voglio chiedere a Turba, come laureato appunto in scienze alimentari, se diciamo se esistono appunto degli animali per le corse trattati con anabolizzanti e tante altre cose, se poi in realtà diciamo si possono individuare, diciamo, queste carni che non sono da mettere in commercio. Ma guardi, già esiste una normativa molto severa in Italia che suddivide gli equini in animali ad uso sportivo e animali ad uso zootecnico, quindi esiste un microchip che viene messo ad ogni animale, quindi già questo corrisponde a un passaporto e corrisponde poi a una tracciabilità di questo animale, quindi chi decide all'inizio che ha un animale e lo destina ad uso sportivo sa benissimo che questo animale non potrà mai entrare nella catena alimentare. Va bene anche che questo al di fuori, credo che sia impossibile che un macello con bollicere dove ci sono migliaia di controlli o altre cose possa scappare un microchip del genere. Quindi io credo bene. Che sia veramente in Italia quasi impossibile. Bene, la ringrazio e a presto. Invece chiedo a Morsani di rimanere ancora un po' con noi. Bene, allora sentiamo, andiamo in un salumificio Coppiello di Perarolo di Vigonza da Simone Agostini. Buongiorno Agostini. Salve a lei. Volevo chiederle, Agostini, qual è il prodotto, diciamo, della salumeria equina che è più, diciamo, venduto sul mercato? Possiamo fare un distinguo tra quello che produciamo noi e quello che è più conosciuto sul mercato, probabilmente è la Bresaola, perché come prodotto è forse l'unico che può presentarsi come alternativa alla Bresaola di Manzo. Per qualità organolettiche, per qualità soprattutto nutrizionali, oltre che per l'aspetto e presentazione. Ecco, io, cioè, diciamo che il più noto che conosco sono sì, sicuramente la Bresaola, però quello che vedo più magari anche nelle tavole dei ristoranti, vedo gli sfilacci più che altro. Quello invece è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia. Ah, è il vostro cavallo di battaglia, non male, sì, come battuta. Se mi consente la battuta, sì, è il nostro, certo, cavallo di battaglia. Certo, certo. Quindi lo sfilaccio è quello più diffuso, insomma. Sì, sì, e anche soprattutto come nostra produzione noi siamo specializzati per quel genere di prodotto, e che è di nostra invenzione oltretutto. Ah, bene, quindi avete inventato voi lo sfilaccio? Sì, l'ha inventato il signor Giovanni, che come molti altri prodotti alimentari scoperti per caso, diciamo da un piccolo da un piccolo disguido tecnico di alcuni tagli di carne che sono stati dimenticati dentro un affumicatoio. Ah. Sono stati tutta la notte, quindi hanno subito una cottura oltre il limite che era utilizzato dalla ricetta tradizionale, e l'indomani sono stati rinvenuti molto, molto asciutti, e quindi il signor Giovanni, che era lì, ha preso questi qua, ha detto, in primo momento si è un po' rammaricato perché pensava di aver bruciato tutto quanto, e invece prendendoli in mano e provando a pettinarli con un punzone per salami ha visto che tendevano a sfilare molto bene ed erano anche molto buoni, saporiti, e ha detto perché no, ha cominciato a proporli nelle ristorazioni zona, e dopo da lì sono passati sono diventati anche un piatto tradizionale di Verona, diciamo, sicuramente ha avuto grande successo. La ringrazio, una battuta finale, ma proprio guardi Morsiani, ho 30 secondi, sì. Lei ha parlato di Argentina e di Polonia, qual è il paese al mondo, lei sicuramente lo sa, che consuma più carne di cavallo? È l'Italia, è la Francia. Addirittura? Cioè noi consumiamo più degli argentini e degli altri dove avete gli stabilimenti? Assolutamente sì. Anche un dato pro capite, perché l'Istat non è riuscito a darmelo. In Italia il consumo pro capite si attesta attorno ad 1 chilo pro capite per persona. Il gastronauta. Eccoci ancora a parlare di carne di cavallo. Abbiamo sentito i poteri nutrizionali, abbiamo sentito da dove arrivano queste carni, i controlli molto ferri che vengono fatti, quanta se ne consuma. Insomma, un fenomeno veramente intrigante da scoprire. Diciamo che questa trasmissione è nata proprio da questo. È nata dallo scandalo, però lo scandalo, come ho detto, l'abbiamo già chiarito col capitano Braturlon del Comando Centrale dei NAS. Noi abbiamo voluto approfondire le macellerie, i macellai, i salumifici che producono carne di cavallo, i macellatori, proprio per avere così uno spaccato di questa realtà, che è una realtà molto consistente. Abbiamo sentito addirittura ogni italiano ne consuma 1 chilo all'anno, che siamo il paese con la Francia che consuma più carne di cavallo. Quindi è veramente un dato, come posso dire, sorprendente. Bene, carne di cavallo abbiamo sentito anche quali qualità ha, però sentiamolo in cucina, le qualità della carne di cavallo, se le ha. E lo sentiamo con un grande chef milanese, sentiamolo con Claudio Sadler. Buongiorno Claudio. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Allora Claudio, che mi dici? Tu consumi carne di cavallo? Guarda, proprio oggi ho fatto una bella costatina di puledro, me la sono mangiata io, mi fa molto bene, una carne saporita, ma non come il manzo, però dolce, delicata, poco grassa, e quindi direi che sì, la consumo e poi la uso molto nei miei piatti, nel senso che in questo momento, a parte lo sfilaccio di cavallo che hai detto poc'anzi, che si usa anche con il purè di sedano di Verona. Ecco, sì, infatti era il sedano, quello che mi sfuggiva, l'ho detto Panti. Ecco, vedi, allora te lo ricordo. E poi, come si chiama, lo uso come stuzzichino, piace molto, è una cosa molto anche divertente, coreografica. E poi lo uso la costata, la uso soprattutto diciamo nel mio ristorante, diciamo bistrò Trattoria Moderna Chic & Quick, che piace molto, una carne molto molto delicata, molto leggera, quindi va molto bene. E poi oltre a questo, per restare nell'equino, faccio molto uso del reale di asinello, con cui faccio lo stufatino cotto adesso a bassa temperatura, dove praticamente si riesce ad avere una carne molto più saporita, molto più morbida, grazie a questo tipo di cottura che rispetta molto la fibra del diciamo di questa carne, quindi alla fine ha un grande sapore. E poi da lì partiamo anche per fare, come si dice, i ravioli, nel momento in cui lo stufato lo dedichiamo a fare il ripieno per fare i ravioli di stufato di asinello, che è un piatto veramente eccezionale. Senti Claudio, i clienti, cioè c'è una clientela che così assaggia volentieri, chiede volentieri questo tipo di carne? Ma guarda, io non trovo nessuna riluttanza. Ovviamente, ad esempio, ho anche dei miei amici, delle mie amiche che hanno delle affezioni a questo animale, perché o lo hanno posseduto o lo hanno, diciamo, amato perché è cavalcato e quant'altro. Però a parte questo non ho mai sentito altre cose. Abbiamo un po' più, diciamo, di riluttanza da parte degli stranieri. Ad esempio gli inglesi, quando noi nel menù del ristorante scriviamo ravioli di donkey, no? Sono così, l'asino, il cavallo, non possiamo mangiare, dicono gli inglesi, no? Certo, questa sì è vero, è una... Perché hanno proprio una forma di rispetto riverenziale, sì, vero, rispetto a questo animale. Per quanto riguarda gli italiani... No, ecco, infatti io l'ho premesso molto... prima, che diciamo c'è una sensibilità in molti consumatori, ovviamente, appunto tu dicevi chi ha cavalcato, chi ha avuto anche magari un cavallo, un piccolo cavallo, un pony da piccolo, quindi sicuramente c'è questo tipo di riluttanza, e io l'ho detto all'inizio, rispetto questo. Ho fatto, diciamo, questa trasmissione proprio per andare a scoprire questo mondo così nascosto, perché non se ne parla quasi mai, eppure le macellerie sono veramente molto diffuse. Ora rimani con noi Claudio, perché appunto io voglio andare a Verona, vado in una macelleria di Verona, e quello che colpisce a Verona è veramente un numero molto alto di macellerie equine, e voglio chiedere a Andrea Garonzi perché, no scusi, c'è Giovanni, c'è il padre, non c'è il figlio, Giovanni Garonzi, appunto macellaio in Verona, voglio chiedere se Verona ha tante macellerie, perché ha una lunga tradizione appunto sulla carne di cavallo. Sì, buongiorno Giovanni. Sì, in effetti è vero, qui a Verona ci sono 15 macellerie storiche, poi da quando si è modificata la legge, allora la carne di cavallo viene venduta anche nei supermercati, per cui si è allargato ulteriormente diciamo il mercato. Perché cos'è cambiato, Giovanni, sulla legge? La legge è che prima le macellerie di carne di cavallo erano un po' ghettizzate, nel senso che uno poteva vendere solo e soltanto carne di cavallo, mentre invece adesso chi ha la macelleria di cavallo può vendere il manzo, può vendere il pollo, può vendere praticamente tutto, e viceversa naturalmente. Il cavallo non è più ghettizzato come una volta, che in qualche modo sembrava che potesse contaminare, invece assolutamente non è vero, tant'è che si possono fare gli insaccati misti ad altre carni, misti al maiale, mi capisce? Certo. Per cui è possibile tenere sullo stesso banco di vendita più tipi di carne, quindi anche la carne di cavallo. Senta Giovanni, ma in realtà lei ha parlato di misto, quindi si fanno anche dei salumi misto cavallo con altre carni? Sì, nell'industria fanno anche questo, fanno i salami maiale soprattutto, diciamo che quando gli dicono che un insaccato è di cavallo, realmente nella maggior parte dei casi è di cavallo, con il lardo, la pancetta e il grasso è di maiale. E abbiamo di cavallo non credo che esista. Ho capito. Anzi, non esiste. Abbiamo con noi Giovanni Garonzi, un grande chef milanese, e allora voglio chiedere a lei, come macellaio, poi passiamo anche la parola a Claudio Sade, qual è i tagli che lei vende di più di carne di cavallo? Ma guardi, noi il cavallo, mentre gioco forza noi abbiamo imparato purtroppo, perché una volta non si poteva importare il cavallo a pezzi o a quarti, che uno se voleva un posteriore, due posteriori o dieci, uno doveva consumare il cavallo intero, per cui gioco forza noi ci siamo adeguati e abbiamo imparato a venderlo tutto il cavallo. Quindi anche, nuovo, le frattaglie, anche le frattaglie? Anche le frattaglie, ad eccezione del fegato, che ha bisogno di un'ulteriore, diciamo, visita sanitaria, ma se non per il fegato, dire, il cuore, anche le frattaglie. Sì, sì. Cioè diciamo, il fegato, oltre a passare, diciamo, i primi controlli, appunto. No, addirittura non fanno controlli. Il macellatore di cavalli, sì, chiede espressamente al veterinario dello stabilimento dove si appoggia per la macellazione che il fegato venga sottoposto all'interiore a un ulteriore controllo. Perché sembra che il cavallo immagazzina del cadmio, è una polvere metallica che si ferma nel fegato e non riesce più a smaltirlo, specialmente quando va avanti con l'età. Con più è avanti di età e più questo cadmio è presente, con più invece è giovane, o magari addirittura che succhia il latte della mamma, sì, che succhia il latte della mamma, allora lì lo troviamo in una misura proprio molto bassa, ecco. Beh, infatti si dice che il latte di asina possa combattere la pertosse, questa è una, diciamo, è un fatto, proprietà, sì, sì, sì, è una tradizione, popolare in alcune regioni, che mia nonna mi raccontava sempre, quindi non so se poi funziona o non funziona, però diciamo che c'è questa tradizione. Io voglio tornare un secondo a Sander per sapere se lui ha mai così cucinato anche delle parti, appunto le frattaglie, escluso il fegato di cavallo. Davide, no, purtroppo non ho mai avuto questa occasione. Ho provato alcune volte le salsicce di cavallo, i salami di cavallo, che comunque, come diceva il signore poc'anzi, è ovviamente mescolato con della materia grassa che proviene poi dai maiali, perché il cavallo non ha questa struttura così grassa, però non ho avuto mai l'occasione di fare questi esperimenti. Bene, allora io ringrazio Claudio Sadler, ringrazio anche Andrea Garonzi da Verona, e volevo così aggiungere alcune cose a questo viaggio che abbiamo fatto, appunto, nella carne equina. Una delle cose che volevo aggiungere è questa sorpresa del consumo, appunto, pro capite di un chilo a testa, e che siamo in testa ai consumatori a livello mondiale, e quindi questo è veramente particolare. E siamo i maggiori consumatori, ma non abbiamo, diciamo, praticamente i cavalli da macellazione, ma abbiamo semplicemente, li importiamo soprattutto dalla Polonia, abbiamo sentito che sembra che sia il paese, diciamo, maggiormente, come posso dire, votato questo, maggiormente dotato di tutto. L'altro fatto secondo me importante è che esiste anche una salumeria. Io devo dire che pensavo semplicemente agli sfilacci e alla Bresaola, invece abbiamo sentito veramente che c'è un po' di tutto. E allora, diciamo, voglio ripetere un po' il discorso, l'abbiamo fatto per scoprire questo mondo che sicuramente è molto, come posso dire, non è molto conosciuto, però abbiamo visto che i controlli ci sono e come, e rimane questo discorso ovviamente di sensibilità di molti verso gli animali, che bisogna assolutamente rispettare, appunto, e che abbiamo cercato di rispettare, nel senso di andare a fondo un po' semplicemente di questo mondo, non andando oltre. Bene, io credo che siamo arrivati in fondo a questo viaggio tra le sorprese di tante macellerie equine in questo paese, perché ho parlato di Parma, ho parlato di Verona, abbiamo sentito, ma la Puglia soprattutto, che diciamo è molto ricca di macellerie equine, ma ce ne sono anche in Sicilia, ce ne sono a Roma. Insomma, io ho fatto così un'indagine e ho scoperto che veramente sono tante nelle città le macellerie equine, anche se sembrano magari che ce ne siano veramente uno o due al massimo. Allora io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.30, e appunto ogni giorno con la pillola dalle 11.05 alle 23.05. Vi auguro un buon weekend primaverile e un caro saluto da Davide Paolini.